l'altra Europa. 6 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa come ogni settimana insieme per raccontare l'Europa, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle storie, l'Europa delle opportunità. Ve lo dico sempre, non nascondiamo i punti critici di questa Europa, però ci piace anche raccontare quello che funziona perché crediamo siano occasioni comunque da cogliere al volo, buone pratiche da mettere in circolo. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, le coordinate virtuali euronetplus.eu, il portale che come sempre vi invito a visitare, il nostro sito radio24.it, dove trovare tutti i contributi extra e scaricare il podcast, e poi le nostre bacheche virtuali, social, Twitter e Facebook, il mio account personale chiocciola Federico Taddia oppure chiocciola Euronet Plus R24. Ok? Avete tutti gli strumenti per seguirci. Ogni settimana un viaggio. Oggi si parte da Atene. Costruire la cittadinanza attiva con la gioventù europea, questo è il cuore del progetto Catch You. E abbiamo con noi Estre Allegri, studentessa del liceo Bertolucci di Parma. Sono appena tornati da Atene per vivere una tappa importante di questo progetto, ma ce lo facciamo raccontare direttamente da lei. Ciao Esther. Forse. Esther? Eccomi qua. Eccoti. Ciao. Togli subito il viva voce, se hai il viva voce o l'auricolare. Che ok, sento. Tolgo subito. C'è un camion che ovviamente si è messo proprio qui davanti. Arrivo. Ok. Così va meglio. Va molto meglio, grazie. Non sei più ad Atene, giusto? No, siamo in strada da Bergamo verso Parma. Stiamo tornando. Bene, allora, com'è andata? Cosa avete combinato in questi giorni nella capitale greca? Finalmente ad Atene siamo riusciti a presentare il lavoro che ci ha impegnato da giugno dell'anno scorso. Un lavoro di ricerca, appunto, che abbiamo svolto durante l'ora di alternanza scuola-lavoro del nostro liceo. Mm-hmm. Eravate un centinaio di studenti da Germania, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca e Svezia, voi gli unici italiani. Esatto, 44 italiani e il resto erano di altri paesi. Mm-hmm. Ed era un confronto con dei decisori politici, giusto? Non eravate solo ragazzi? No, eravamo a una conferenza e quindi assistevano appunto professori delle università rappresentanti al progetto, i quali ci accompagneranno poi verso l'anno prossimo quando andremo a Bruxelles a presentare le soluzioni ai problemi che abbiamo trovato, quindi a livello politico. Eravate divisi per gruppi di lavoro, tu a quale gruppo appartenevi? Esatto, eravamo divisi, nella conferenza eravamo divisi in tre stanze, ma in generale abbiamo lavorato in gruppi separati per ogni nazione. Tu quale argomento hai seguito? Ti ho persa. Scusi, non ho sentito. Sì, scusami, no, ti ho persa anch'io. Quale argomento, quale tema hai affrontato? Allora, nella mia classe sono stati affrontati 4 temi, che sono l'immigrazione, la povertà, la droga e l'inquinamento. Io personalmente ho fatto parte del gruppo che si è occupato di ricerca sull'inquinamento. Uh-huh. Ascolta, ma costruire la cittadinanza attiva per te essere Allegri, quindi al di là di quello che hanno detto gli insegnanti, al di là di quello che hanno detto i politici in questi giorni, che cos'è? Cosa significa? Beh, innanzitutto significa prendersi le proprie responsabilità. Se noi siamo giovani, è vero, siamo forse piccoli per parlare di argomenti così grandi come per esempio l'inquinamento, però è anche vero che noi siamo il futuro, cioè noi siamo quelli che avranno un ruolo importante nel domani. Se non incominciamo già adesso a prepararci, a iniziare a prenderci le nostre responsabilità, sarà difficile che il futuro comunque del nostro paese o dell'Unione Europea vada avanti bene. Tu hai 18-19 anni, se non sbaglio. No, 16. 16, ah, scusa, se no, pensavo fosse il quinto anno. E, tu avrai una tua idea di Europa, credo? Sì. Cioè, per te l'Europa che cos'è? Beh, innanzitutto la mia idea è un po' cambiata durante questo progetto. Cioè, adesso vedo più l'Europa non solo come un gruppo di stati, più che altro la vedo come un gruppo di più di persone. Cioè, spesso si tende a vedere l'Europa come un concetto astratto o lontano. Invece con questo progetto, anche lavorando anche a livello locale così, si è capito che è semplicemente un gruppo di persone. E ma lo so. E quando magari ti confronti con degli adulti, non so, i tuoi genitori, i professori o persone che, con cui hai occasione di parlare, però un po' più grandicelli di te, hanno un'idea diversa dell'Europa? Cioè, durante questi mesi abbiamo svolto molte interviste. Sì. E abbiamo notato, per esempio, che quando ci presentavamo anche a istituzioni come istituzioni comunali e andavamo a parlare con le carte, con i dati, di questi argomenti, c'è un po' l'idea che i ragazzi siano troppo giovani per accedere a argomenti così importanti, quindi come se gli adulti pensassero molto alla visione politica dell'Europa, al problema delle leggi, per esempio, dei vari parlamenti, invece che vederla come semplicemente, non so, una grande famiglia, forse è un po' tanto, però in sostanza è questo. Catcheyu.eu, questo è il portale del progetto, per conoscerlo nei dettagli. Progetto che va avanti, mi hai detto, vero? Questa è stata una tappa, esatto. Ma e si sviluppa. Questa... Dimmi pure. Sì, sì, questa è stata soltanto la prima tappa, la prima conferenza, nella quale avevamo semplicemente lo scopo di dimostrare agli altri paesi quali problemi avevamo individuato a livello locale, per cominciare poi insieme a lavorare a livello europeo e raggiungere quindi l'anno prossimo Bruxelles, dove finalmente potremo esporre un po' le soluzioni che abbiamo trovato ai problemi che abbiamo individuato. Perfetto, obiettivo Bruxelles. Loro sono le ragazze e i ragazzi del liceo Bertolucci di Parma, con cui sicuramente nei prossimi mesi ci ritroveremo per seguire nel dettaglio il proseguimento del progetto. Ciao Esther, buon viaggio, grazie. Grazie mille. Ciao, ciao, buona giornata. Noi adesso ci fermiamo, un euro a post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua, in diretta, con l'altra Europa. Euro post-it. 60° anniversario dei Trattati di Roma. Tutti gli eventi. A tutti i cittadini europei. Il 25 marzo 2017 ricorre il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma. Uno dei momenti storici più significativi del processo di creazione dell'Unione Europea. In Italia, per l'occasione, il Dipartimento per le politiche europee, in collaborazione con le istituzioni nazionali e internazionali, promuove un ciclo di iniziative ed eventi dedicati al dibattito e alla riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra i giovani. Sarà possibile seguire le celebrazioni e condividere le proprie esperienze sui social media attraverso gli hashtag EU60 e RomaUE2017. Per assistere agli eventi, consultate il calendario sul sito del Dipartimento per le politiche europee, politicheeuropee.it. L'altra Europa. L'altra Europa. For hours we were burning cigars with the white plastic tips till we saw the sun. But we said crazy things like, I don't know what's round the corner. Where I feel right now, I swear we'll never change. Back when we were kids, swore we would never die. You and me were kids, swore that we'll never die. Lights down. 5 strade, 5 vie, 5 scenari, 5 opzioni. Sono le 5 declinazioni di Europa presentate dal Presidente del Parlamento Europeo Juncker per lanciare una riflessione sul futuro dell'Unione, riflessione che avrà un suo apice tra poche settimane, il 25 marzo, durante le celebrazioni dei 60 anni della firma dei trattati di Roma. È stato presentato questo libro bianco, ne parliamo con Beatrice Covassi, la rappresentante in Italia della Commissione Europea. Buongiorno Beatrice, ben ritrovata qui all'Altra Europa. Buongiorno Federico Taddia e agli ascoltatori dell'Altra Europa. Cinque strade per questa Europa. Vi ha sorpreso il contenuto di questo libro bianco? La sorpresa, diciamo, è stata che abbiamo giocato d'anticipo, spero che l'abbiate notato, che quindi già il primo marzo, come forse pochi si aspettavano, ormai la Commissione è uscita con questo documento che ha destato un po' di delusione in quelli che speravano di vedere delle proposte sulle politiche piuttosto che sul processo, forse, ma che invece intende proprio, se vogliamo, definire il perimetro delle discussioni che poi avranno luogo nei prossimi mesi a partire da Roma, come è stato ricordato, il 25 marzo, e di questo dibattito che a volte è un po' fumoso, anche sugli elementi istituzionali, sugli elementi di processo, di politiche comunitarie. Quindi la Commissione con questo libro bianco ha identificato cinque opzioni, cinque scenari diversi, di cui però ricordiamo il secondo, il numero due, il Presidente Juncker ha già dichiarato, diciamo, in modo abbastanza esplicito nella plenaria a Bruxelles, Parlamento Europeo, che soltanto un mercato interno, soltanto un'area di libero scambio non sarebbe sufficiente per la Commissione. Certo. Quindi Beatrice, concentriamo sugli altri. Esatto, ce le vuoi presentare questi 4 sì. più 1, diciamo, possibili scenari? Beh, diciamo, il primo scenario chiamato, diciamo, avanti così, quindi continuiamo con il metodo attuale, continuiamo con un metodo che sta dando i suoi frutti, che sono 10 priorità, poche iniziative legislative, ma non espandiamo le competenze comunitarie, non andiamo avanti in altre aree, quindi si continua più o meno come stiamo facendo in questo momento. Il secondo scenario, come ho ricordato, è solo mercato unico, sì. Quindi concentriamo soltanto su questo. Il terzo è chi vuole fa di più, per sintetizzare, e qui si è parlato di Europa a due velocità, si è parlato a Europa a cerchi concentrici o a differenziali di integrazione. Pensiamo già a Schengen, pensiamo all'euro, è uno scenario che già è di attualità e che secondo me sarà probabile nella difesa, perché è possibile che nel campo della difesa in particolare un numero più ristretto di stati voglia andare avanti verso una difesa europea e poi forse seguito da un numero più largo di stati. Il quarto scenario è fare meno in modo più efficiente, che vuol dire gli stati membri dovrebbero mettersi d'accordo su quali aree si va avanti e si va più in fretta. Presuppone un accordo politico, sì. Un esempio è la Guardia di Costiera di Frontiera Europea che abbiamo realizzato l'anno scorso in 9 mesi, quindi in un tempo record, perché c'era una forte volontà politica. E finalmente il quinto scenario è quello del sogno federalista, lo scenario di Spinelli e del manifesto di Ventotene ricordato anche nel libro bianco, quindi fare di più insieme, decidere di andare avanti con un'unione economica e monetaria, con una politica estera unita in vari settori e quindi iniziare a dar vita a uno Stato più federale. Beatrice, ma come sempre la risposta migliore non sarebbe una sesta via, quindi prendere il meglio di questi possibili scenari? Questi scenari sono combinabili, questo è importante ricordarlo, e tutt'oggi li stiamo vivendo in modo già nella realtà, come dicevo appunto, alcune cooperazioni rafforzate ci sono, stiamo comunque facendo un focus mirato su alcune aree politiche piuttosto che altre. Chiaramente tutto dipenderà da come nel tempo poi si manifesta la volontà politica e per il quinto scenario di fare più insieme direi anche il dibattito proprio dei cittadini, di tutti noi, se vogliamo più Europa in alcuni settori. Certo, stiamo respirando ancora il clima del post-Brexit, stiamo aspettando importanti elezioni nei prossimi mesi e contemporaneamente ci sono anche le grandi celebrazioni per i 60 anni dei trattati, 30 anni dell'Erasmus, insomma, la parte bella dell'Europa e la parte sofferente dell'Europa che convivono. Sembra quasi una contraddizione, e invece da questo scontro-confronto potrebbe veramente nascere qualcosa di nuovo, Beatrice? Sì, è un'opportunità. Il libro bianco ricorda la storia dell'Europa, questi 70 anni di pace duratura che ci hanno portato dal manifesto di Ventotene attraverso il crollo del muro di Berlino, l'ampliamento ad est, alla realtà che stiamo vivendo oggi, una realtà che era impensabile per i padri fondatori, in cui ci muoviamo liberamente, abbiamo dei diritti, abbiamo l'abitudine della generazione, non solo Erasmus, ma anche la generazione Y di adesso è abituata a respirare, a vivere questa Europa. Adesso, come ricordavi, ci sono questi nuovi scenari, da un lato la Brexit, dall'altro la nuova amministrazione americana, e delle sfide importanti come la globalizzazione, la sicurezza, la migrazione, che aprono possibilità molto grosse per gli europei se avranno voglia di prendere in mano il loro destino e di andare avanti in alcune aree. Volevo anche ricordare che il Libro Bianco in realtà alla fine proprio dice chiaramente quali sono le aree di riflessione su cui si concentrerà la Commissione, che saranno la dimensione sociale, l'unione economica e monetaria, la globalizzazione, la gestione della globalizzazione, la difesa e il bilancio dell'Unione. E su queste aree tematiche avremo dei documenti di riflessione entro giugno di quest'anno, che quindi animeranno i dibattiti, se vogliamo, più ampi possibili con i parlamenti nazionali, con i cittadini e con tutti quelli che sono interessati al futuro del continente. Grazie Beatrice, tutto pronto per il 25 marzo? Eh beh, ci stiamo lavorando giorno e notte. Immagino. Siamo qui per raccontare tutto quello che accadrà. Grazie ancora, buona giornata. Ciao Beatrice. Grazie a voi, buona giornata. Beatrice Covassi, la rappresentante in Italia della Commissione Europea. Europost-it. 50 borse di mobilità per stage all'estero per residenti nella Regione Calabria. A tutti i giovani residenti nella Regione Calabria. La Commissione Europea, in collaborazione con Euroform RFS, offre nell'ambito del progetto di mobilità transnazionale Marco Polo 50 borse di mobilità destinate a stage all'estero. Sono invitati a partecipare tutti i giovani calabresi che desiderino fare un'esperienza lavorativa internazionale e nell'ultimo anno abbiano conseguito una qualifica professionale, un diploma o intrapreso un ciclo di apprendistato. I periodi di stage possono andare da 3 a 13 settimane e i paesi di destinazione sono Irlanda, Lituania, Polonia e Spagna. Le candidature dovranno essere inviate entro il 28 aprile, seguendo le istruzioni elencate nella sezione Bando Marco Polo del sito euroformrfs.it. Futuro, visione di teatro, è il titolo del Festival Internazionale di Teatro e Cultura per la Prima Infanzia che si sta tenendo a Bologna, presso il teatro La Baracca. Si conclude il 5 marzo, tutto ciò è iniziato il 24 febbraio. Tra le priorità di questa nostra Europa c'è, lo sapete quanto ci tenga a dirlo sempre, la cultura si fa anche con le arti, lo si fa coinvolgendo i più piccoli, e visione di futuro, visione di teatro respira proprio questo clima, anche perché fa parte di un progetto europeo che si chiama Small Size. Di tutto ciò ne parliamo con il referente del progetto stesso presso il Teatro Testoni Ragazzi di Bologna. Diamo il benvenuto ad Anna Sacchetti. Buongiorno Anna. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti. Infatti ho detto il Teatro La Baracca, ma è il Teatro Testoni, ho fatto confusione io, chiedo scusa. No, figurati. Allora Anna, cosa sta succedendo a Bologna e quanto di quello che sta accadendo a Bologna appunto ha origine, a respiro europeo? Allora, a Bologna si sta svolgendo la 13ª edizione del nostro festival Visioni di Futuro, Visioni di Teatro, che quest'anno appunto è durato 10 giorni, dura sempre 9-10 giorni, e quest'anno abbiamo ospitato 26 spettacoli diversi con 42 repliche in tutto in questi 10 giorni, e niente, sono stati 10 giorni molto pieni. Abbiamo avuto durante i giorni della settimana abbiamo avuto le scuole dell'infanzia e i nidi qui in teatro da noi, abbiamo avuto le famiglie nel pomeriggio e nei weekend, abbiamo avuto artisti europei e extraeuropei in realtà, uh-huh, che sono andati nei nidi e nelle scuole dell'infanzia del comune di Bologna per questo progetto Artist Meet Early Years, che abbiamo in collaborazione con l'istituzione Educazione Scuola del comune, che permette appunto a giovani artisti di confrontarsi spesso per la prima volta con i bambini così piccoli e quindi di portare avanti la loro ricerca artistica. E abbiamo avuto moltissimi ospiti quest'anno da veramente tanti paesi, una trentina di paesi tra una cosa e l'altra, e il respiro europeo di questo festival si sente proprio perché è molto collegato al progetto Small Size, il festival, nel senso che è quasi una sua, è una delle sue emanazioni, per cui all'interno di questo festival, così come di altri festival degli altri partner, si incontrano i partner, si incontrano le produzioni dei partner, ci si scambiano idee, si aprono nuove collaborazioni, nuovi progetti. E quest'anno appunto abbiamo ospitato 5 nuove produzioni che stanno all'interno del progetto Small Size e insomma è stata una bella occasione di scambio. Certo. Ma Anna, un progetto come Small Size che appunto coinvolge compagnie, teatri di tante nazioni europee, al di là dei fondi erogati, perché ci sono fondi a disposizione per portare avanti ovviamente questi progetti, il vero valore aggiunto qual è? Cioè, qual è la finalità? Qual è il guadagno in tutti i termini che si ha nel mettersi lì, coprodurre spettacoli con altre realtà, scambiarsi le buone pratiche? C'è un vantaggio reale? Guarda, c'è sicuramente un vantaggio reale in termini di scambio artistico, che è fondamentale per noi. Per cui questi progetti ci danno la possibilità, da un lato appunto, di confrontarci con artisti di altri paesi, di scoprire nuovi linguaggi, di verificare anche i nostri linguaggi su altri pubblici e contemporaneamente di portare avanti una cosa in cui crediamo molto, che è il diritto dei bambini a partire dai più piccoli, dai piccoli da 0 a 6 anni, di poter godere delle arti e della cultura, in particolare delle arti performative nel nostro caso, perché appunto siamo tutti teatri, compagnie, centri culturali, municipalità coinvolte nelle arti performative. Certo. E quindi sì, ti direi che il valore aggiunto è proprio questa possibilità di scambio costante. Mm-hmm. Beh, insomma, il fatto che, no, avere come obiettivo il fatto che un bambino possa godere delle arti, credo che sia lo slogan più bello che tu, insomma, potessi scegliere e utilizzare. Smallsize.org, questo è il sito di riferimento del progetto, testoniragazzi.it invece è il sito del Teatro di Bologna. Esatto. Grazie davvero ad Anna Sacchetti, buon lavoro e buona conclusione di festival. Domani 5 Grazie marzo, mille. Ultimo giorno. Ciao, buon sabato. Noi ci Grazie. Fermiamo, un euro post-it, un po' di pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Euro post-it. La Commissione europea sviluppa una app per tracciare 37 specie aliene invasive. A tutti gli appassionati di ambiente ed ecosistema, il Joint Research Center della Commissione europea ha sviluppato una app per smartphone che aiuterà i cittadini europei a identificare e condividere le informazioni su 37 cosiddette specie aliene invasive, cioè su animali e piante provenienti da altre parti del mondo che rappresentano una minaccia per l'ecosistema locale. Le informazioni raccolte tramite l'app consentiranno al centro di ricerca di creare una mappa di questi pericolosi organismi e sviluppare una strategia di difesa della biodiversità. L'applicazione è gratuita e può essere scaricata su Android e iOS seguendo il link indicato dal sito del Joint Research Center ec.europa.eu/jrc. L'altra Europa. Happy in mother's home. Then one day I went out on my own, and I was sorry. The day that I left my mother alone. Love. After a while, Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, chiocciola Federico Taddia su Twitter e Facebook, lì potete trovare anche tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando, li pubblichiamo in diretta in modo che possiate recuperare tutto e tutto ciò, lo potete ritrovare poi sul nostro sito anche radio24.it, i contributi extra, gli Europost-it, il podcast della puntata. Parliamo di donne adesso, anticipiamo di qualche giorno la festa delle donne, parliamo dell'Unione Europea, abbiamo sentito anche prima da Beatrice Covassi, si parlava delle celebrazioni del 25 marzo, si parlava dei padri fondatori dell'Europa. Noi vogliamo ribaltare un po' questa lettura e proporvi una narrazione dell'Europa al femminile. E lo facciamo grazie a Maria Pia Di Nonno, dottoranda in storia dell'Europa, la Sapienza di Roma, che ha fatto un bellissimo lavoro andando alla scoperta delle madri fondatrici dell'Unione Europea. Lo ha fatto con un lavoro di ricerca, con una mostra e con un libro intitolato Europa, brevi ritratti delle madri fondatrici, edito da Edizioni di Comunità. E buongiorno Maria Pia e benvenuta qui all'Altra Europa. Buongiorno e grazie Federico. È davvero un'altra Europa quella che hai raccontato tu, tratteggiando queste storie, queste trame, queste vite? Sì, è un'altra prospettiva di essere e di vedere l'Europa. Ed infatti questa idea nasce ancora prima del 2017, nasce nel 2014, quando dopo una delusione coinvolsi dei giovani ragazzi dello Sturzo per organizzare una serie di conferenze sulle madri fondatrici dell'Europa. E proprio la prima conferenza decidemmo di intitolarla Ursula Hirschman, un altro modo di essere Europa, proprio perché la convinzione principale è che l'Europa non sia stata fatta, solo dalle istituzioni, dai padri fondatori, che ovviamente sono i massimi rappresentanti delle istituzioni europee, questo è fuor dubbio, ma l'Europa è stata fatta anche da quelle persone che all'atere anche della storia ci hanno creduto e hanno reso quel progetto possibile. È il caso delle madri fondatrici dell'Europa, ma è anche il caso di tantissime altre figure d'ombra, questo va anche al di fuori del concetto di genere, certo, che hanno consentito tutto questo, e anche i cittadini, perché anche i cittadini dell'epoca ci hanno creduto. Tu hai raccontato storie. Qual è l'aspetto di queste storie che ha reso queste donne protagoniste dell'Europa? L'aspetto che si ritrova in realtà in ognuna delle storie, di queste donne è l'aspetto della testimonianza. Cioè, queste donne hanno agito non per ricevere riconoscimenti, onori, ma perché realmente ci credevano. Infatti tra di loro le une un po' più politiche e istituzionali sono Simone Veil, la prima presidente del Parlamento europeo eletta nel 79, e Louise Weiss, ma tutte le altre hanno lavorato veramente in ombra, quindi c'è questo tema, e c'è il tema quindi della testimonianza. Quindi l'importante è proprio questo, cioè ritrovare anche per l'Europa oggi, tramite le storie di queste donne, delle testimonianze concrete che dimostrino che l'Europa, un'Europa diversa, sia realmente possibile. Quindi è molto forte questo aspetto della testimonianza e di agire non per ricevere riconoscimenti e vari onori, ma perché appunto ci credevano fermamente. E Maria Pia, abbiamo veramente una manciata di minuti, però riusciamo a fare una carrellata di questi profili. Quali sono le donne veloce che hai raccontato? Grazie. Sì, e poi comunque rimando al sito www.lemadrifondatricidell'europa.it, dove è possibile trovare tutto il materiale di ricerca del progetto finanziato appunto dalla Sapienza. Le donne individuate sono Louise Weiss, Ada Rossi, Maria De Runterichter, Sophie Scholl, Eliana Vogelpolsky, Simone Veil, Ursula Hirschman, Fausta De Sorm e Sofia Corradi, nota anche come mamma Erasmus. Però ovviamente quello che mi preme anche evidenziare è che è veramente la fase iniziale di una ricerca, e che questa lista ovviamente non è esaustiva, ma andrebbe implementata. Infatti l'augurio è anche quello che dei giovani si possano interessare e cercare loro stessi delle madri fondatrici dei propri paesi. Certo. E tra queste figure qual è quella a cui sei più affezionata, se c'è? Beh, questa diciamo che è una bella domanda. Non saprei dire precisamente a quale di queste figure sono più affezionata, però forse quella in cui mi riconosco di più è certamente Sophie Scholl, cioè questa giovane studentessa che pur di portare avanti i propri ideali dissemina questi volantini del gruppo La Rosa Bianca e viene uccisa pur di restare ferma sui propri ideali. E penso che il messaggio e la testimonianza di Sophie Scholl, che poi è morta nel 1943, non li ha visti nemmeno i trattati di Roma, quindi forse dal punto di vista storiografico non può essere nemmeno definita una madre fondatrice, ma la sua testimonianza è così importante e così bella che secondo me arriva sino ai nostri giorni ed insegna qualcosa che i testi di storia non possono insegnare. Quindi è diciamo la figura in cui mi vedo meglio, perché è una giovane europea che crede fermamente in alcuni principi e li porta avanti. Certo. Sofia Corradi è l'ultima anche in ordine di temporale, no? Tra le donne che hai raccontato, la sua visione della mobilità che poi è sfociata nel progetto Erasmus, è proprio una madre fondatrice della, forse il concetto di condivisione, no? Cioè, una volta fatta l'Europa, poi questa Europa anche andiamo a viverla, andiamo a conoscerla, andiamo a contaminarci tra le varie culture. Forse è stato questo il suo contributo. Esattamente questo. Infatti nell'87 la Commissione Europea lanciò un premio che si chiamava Donne per l'Europa, e questo diceva che definiva le madri fondatrici non tanto madri fondatrici ma come madri creative, perché avevano avvicinato i cittadini all'Europa. Quindi è questo un po' il senso e anche un altro, diciamo, fil rouge che lega tutte queste figure. Poi Sofia Corradi si lega anche alla figura di Sophie Scholl, perché anche lei è una giovane, ha questa idea di facilitare gli scambi universitari all'incirca nel 57-58, quando vince una borsa di studio Fulbright e va in America. E quindi qui nuovamente torna il messaggio ai giovani, per cui secondo me la figura di Sofia Corradi è importante, perché insegna ai giovani che hanno delle idee veramente creative a portarle avanti, perché non le potranno realizzare nel breve termine, però aumentando di livello, di carriera e quant'altro potranno rendere i propri sogni di gioventù concreti. Maria Pia, un'ultima domanda: oltre a essere ideali politici, ideali sociali, sono anche storie dove c'è una forte componente legata alla passione, ma legata anche all'amore, legata anche ai sentimenti, che credo che anche questo sia una bella faccia di queste madri fondatrici. Sì, questo è un aspetto assolutamente molto interessante. Infatti in alcuni casi la storia d'amore per l'Europa si intreccia proprio con delle storie d'amore. È il caso di Ada Rossi ed Ernesto Rossi, di Ursula Hirschman ed Eugenio Colorni, e poi quando morì Colorni Spinelli. Quindi c'è in effetti questo legame, in questo caso di Ada Rossi e Ursula Hirschman. Io le definirei non tanto le mogli di appunto Spinelli e di Rossi, ma più che altro le consorti, perché loro in qualche modo hanno scelto di portare avanti insieme questi progetti con i propri mariti, quindi non hanno avuto un ruolo meno importante, ma hanno avuto un ruolo ugualmente importante. mariapiadinonno.wordpress.com, questo è il sito per conoscere meglio il sito personale, e poi personale per le madri fondatrici è www.lemadrifondatricidelleuropa.it. Perfetto, lì potete trovare tutto il materiale, c'è anche la mostra, vero, che insomma è anche sì, i pannelli sono consultabili. Perfetto. E possono essere anche scaricati, sono in PowerPoint. Ottimo, quindi insomma ci sono tutti gli strumenti per conoscere meglio queste storie e interagire anche con Maria Pia Di Nonno per eventuali altre ricerche, altri percorsi. Grazie davvero Maria Pia, complimenti per grazie a te Federico. Ciao. Buon sabato. Noi adesso ci fermiamo, un euro post-it, ancora le informazioni del traffico, e poi torniamo qui con un'altra storia che ci porterà a raccontare, ci porterà a conoscere, a scoprire pezzi di Europa da un punto di vista particolare, da un osservatorio atipico che è un sottopassaggio ferroviario. Europost-it. Tirocinio presso lo European Institute for Gender Equality. Sei appassionato alle tematiche di genere e sei alla ricerca di un'esperienza lavorativa internazionale? Lo European Institute for Gender Equality, ente europeo per la difesa dell'uguaglianza di genere, offre un posto come tirocinante nella sua sede di Vilnius, in Lituania. Tra i compiti del candidato vi saranno il coordinamento e la partecipazione alle varie attività dell'istituto, come la raccolta e l'analisi di informazioni e lo sviluppo di strumenti metodologici per l'integrazione di genere nelle politiche dell'Unione. Il tirocinante sarà inoltre invitato a creare e rafforzare il network di contatti tra i partner dei vari paesi al fine di favorire le attività dell'Istituto. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura nella sezione Career Opportunities del sito age.europa.eu. L'altra Europa. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta L'altra Europa. I don't know who I am or what I'm gonna do. Been so long, I've been hopelessly confused. This can never really end. Someone tell me where something good became so bad. So if you have a cure to me, would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. Precipice is near, but will I ever dare throw myself in the sky? So at last I can die. Un tunnel sotterraneo, un luogo di passaggio, un passante ferroviario qui a Milano, tra il passante ferroviario di Porta Venezia, qui un luogo di collegamento, un luogo dove passano storie. Un luogo dove queste storie si possono fermare per un istante, si possono bloccare, congelare e magari diffondere, amplificare, no? Perché sono persone che passano, ma sono trame che puoi intercettare, che puoi conoscere, che puoi scoprire. Che storie si possono trovare tramite queste storie? Quale altra storia si può ricostruire? Questo è un po' il cuore di un progetto che sta nascendo, credo che anche proprio in questi minuti stiano facendo fotografie, un progetto fotografico del collettivo del gruppo Baretto Beltrade, si chiama I Light You e lo andiamo a scoprire insieme a Paolo Pizzigalli. Ciao Paolo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, grazie. Posso subito correggerti, ma certo. So che è un errore comune, sono Pizzagalli, non Pizzigalli. Ah, scusa, sì. No, è un classico. No, ma è un classico anche che io faccia questi errori, quindi insomma, classico chiama classico, scusa non Paolo. Non è problema. Allora Paolo, la prima domanda sarebbe: che città state raccontando vista dal passante ferroviario? Ma poi vado subito oltre, che Europa state raccontando da questo punto così particolare? Così nascosto come luogo d'osservazione? Ma la città che stiamo raccontando credo che possa essere l'esempio di una città qualunque europea, probabilmente ormai al giorno d'oggi, ovvero se ci si ferma un attimino a guardare la gente che passa e gli si fa anche solo due o tre domande che caratterizzano la provenienza piuttosto che la destinazione, ci si accorge che non esiste più una città di un paese, ma esiste una città di cittadini che sono in movimento, che sono in viaggio, che hanno magari l'Europa come destinazione o come provenienza. Quindi è una città viva, diciamo, una città internazionale. Voi quindi vedete questa gente passare, la fermate, chiedete se hanno voglia di... Sì, ecco, a trovarci di sotto possiamo apparire anche abbastanza bizzarri, perché siamo appostati all'interno di questi spazi che ci vengono concessi da Arte Passante, che è un'associazione culturale di Milano, e ci aggiriamo con macchine fotografiche piuttosto che con luci dove è appostato un set fotografico e chiediamo gentilmente ai passanti se vogliono partecipare a questa indagine, cercando di spiegare in poche parole di cosa si tratta, ovvero indagare il percorso che i cittadini e i passanti stanno facendo in quel momento, da dove arrivano e dove stanno andando nel momento specifico e perché stanno passando di lì. Questo diciamo che era l'idea iniziale, che poi un po' si è evoluta vedendo anche la disponibilità dei soggetti che si prestavano al nostro set fotografico, e quindi abbiamo cercato un attimino di tracciare anche le provenienze come paesi di origine o anche come paesi di destinazione. Ah, certo, perché è il passante, appunto, è un punto di partenza, sì. Un punto di arrivo. I like you.blogspot.it, questo è il sito. Paolo, che Europa avete colto fino ad ora? Abbiamo colto un'Europa varia e un po' che ci riporta anche alla cronaca attuale, come può essere, per esempio, se posso citare un paio di casi, sì. Un ragazzo dell'Eritrea, Tafu, che è stato forse uno dei primi a fermarsi, a prestarsi a questo nostro progetto, e, insomma, abbiamo superato un po' di limiti linguistici che ci separavano, ma siamo riusciti a capire che lui era veramente l'esempio della cronaca degli ultimi mesi, degli ultimi anni, proveniente dall'Eritrea tramite un viaggio via terra inizialmente, poi via mare su uno dei famosi barconi, e che sogna di andare in Inghilterra. Ora, ogni tanto ci ritroviamo a pensare, io e gli altri componenti del gruppo, dove sarà Tafu adesso nella sua odissea verso l'Inghilterra. Poi abbiamo un'Europa di provenienza e di destinazione allo stesso tempo, come può essere il caso di Adriana, di origine rumena, una musicista che suona la viola, che ha passato 5 anni in Canada dopo aver vinto una borsa di studio per l'Orchestra Filarmonica di Montreal, poi è tornata in Europa, in Spagna, dove ha vinto un'altra borsa di studio per la Filarmonica di Valladolid, e adesso la incontravamo a Milano mentre stava andando alla Scala per il suo primo concerto, stretta alla sua viola, si vedeva proprio l'amore per questo strumento, dopo aver vinto un'ulteriore borsa di studio per la Scala di Milano, quindi diciamo un soggetto di eccellenza, ecco, per quanto riguarda la musica. Ci sono tanti altri casi, non so se vuoi... No, stavo riflettendo mentre raccontavi queste storie, no? Che poi il passante è anche un luogo dove, insomma, di solito si va di fretta, no? Si corre, se comunque sempre in ritardo, comunque è un luogo, no, una perdita di tempo, devi cercare, sì, il prima possibile di superare per raggiungere, sì, il tuo obiettivo. Quindi invece vai a chiedere alle persone di fermarsi, di bloccarsi, di raccontarsi, che quindi è una forte contraddizione. Sì. C'è il desiderio di aprirsi una volta? Sì. Allora, l'idea è proprio questa. Diciamo che la scelta un po' che è stata obbligata perché gli spazi a disposizione erano quelli, e un po' si è rivelata proprio specifica per quanto riguarda l'idea del progetto, ovvero trasformare il classico non luogo di passaggio, quello dove si arriva e si passa di fretta, come dicevi tu, in un luogo dove provare a indagare se effettivamente le persone hanno minimamente la volontà di lasciare uno spiraglio aperto all'empatia e alla conoscenza dell'altro, perché noi ci presentiamo proprio come estranei, ci mettiamo in mezzo al tunnel mentre la gente passa con borse piuttosto che biglietti in mano e cerchiamo di rubargli questi 5-10 minuti al massimo. E c'è tanta gente che ha, diciamo, voglia di raccontarsi, anche minimamente, sono storie semplici, storie veramente che può avere chiunque di noi, però c'è voglia di fermarsi per quei 5 minuti anche in un tunnel sotterraneo a dire dove stanno andando, cosa stanno facendo e anche perché a volte. Ho visto un po' di questi ritratti, sono molto, molto belli, molto intensi, molto moderni, è molto bello anche come raccontati in quelle 4, 5, 6 righe, no? Sono proprio dei frame di una vita, però che danno l'idea del valore del confronto, dell'incontro, della contaminazione. I like you.blogspot.it, questo è il sito, tutto ciò diventerà presto una mostra, vero? Allora sì, tutto questo fortunatamente siamo riusciti a entrare nel circuito del Milano Photo Festival, che aprirà il 20 aprile e chiuderà il 13 maggio, diciamo una mostra diffusa in tutta la città di Milano, e avremo l'esposizione proprio lì nel passante ferroviario, nel tunnel, questi 50 metri di tunnel che collegano il passante ferroviario con la rete metropolitana milanese. E c'è tutta una parete di vetrate che cercheremo di allestire con una selezione di questi ritratti che alla fine, fra tutte le 10 sessioni che abbiamo fatto, che stiamo facendo, aggiungo che oggi è in corso l'ultima sessione, quindi oggi, insomma, pomeriggio, esatto, dalle 15 alle 19, chi volesse, siete di passaggio, esatto, volesse anche solo andare a curiosare cosa sta succedendo. Perfetto. Siamo lì, e la mostra verrà proprio lì al tunnel del passante ferroviario dal 20-22 aprile fino al 13 maggio. Ottimo, grazie davvero a Paolo Pizzagalli di Baretto Beltrade, buon sabato. Ti ringrazio, ciao Paolo. Ciao, ciao. Europost-it. CEIC Europe Direct Napoli inaugura una nuova biblioteca europea. Attenzione appassionati di libri! A Napoli, Europe Direct, centro di informazione e sensibilizzazione sull'Unione Europea, ha inaugurato una nuova biblioteca europea. La struttura si trova in via Partenope 36 e conta circa 1500 volumi tra monografie, riviste scientifiche e tesi di laurea redatte da studenti delle università della Campania sui temi dell'integrazione europea, del multiculturalismo e dell'internazionalizzazione. Si tratta di uno spazio di lettura, ascolto e confronto aperto a tutti per studiare, discutere e lavorare. Tutte le informazioni sul sito comune.napoli.it/CEICC. Peter Vesca per la parte tecnica, Claudio Scattone in assistenza, Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. Questa è tutta la squadra dell'Altra Europa. Vi ricordo che potete contattarci, la nostra mail è l'altraeuropa@radio24.it e se volete segnalarci progetti, opportunità, idee, ma anche critiche. Riceviamo tutto, leggiamo tutto e con piacere anche diffondiamo le migliori buone pratiche. Radio24.it è il nostro sito e lì potete, come già sapete, vi ho ricordato più volte, trovare i contributi extra, i nostri Europost-it che sono le segnalazioni più importanti della settimana, oppure il podcast della puntata. Come sempre, invece, l'appuntamento è alla prossima settimana. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia.